senso m'ha volto, o il senso con le luci anco sepolto. Ah, che mi sciolse appena dalle braccia i pudichi e le piaffa e sirena, ed ora anco mi par camminemi che le sua voce distingua, e con ogni de bracci il se mi stringa. Femmina, ma forte adone, serva, serva costante, alla diva d'amor la fine amante. E per non fare fine, fuggi, fuggi l'infino, d'amor furtivo, ingiurioso nido. Ma il passo tra via, ma che pie mi raffrena, quasi cito io mi sia a fiere laci di crude catena. Forse il ciel mi ritiene e la pioggia mi invita a gioiosa di pace aura gradita. Ma qual gioia è la mia, ove luce da me veder sia. Ogni saggi consigli fuggili di qual verbo, che se non di tuoi pali e testimoni a me i tuoi perigli. Ma dove andrò tra il bosco, chi va il mio pie non sia, senza la dea d'amore ombra ogni pianta, ed ogni